La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. L'articolo 67 affronta uno dei nodi fondamentali della rappresentanza parlamentare. Il deputato, il senatore, chi rappresenta? Rappresenta il suo partito o rappresenta i cittadini? L'articolo 67 non ha dubbi. Il membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Quindi significa che ogni eletto è totalmente libero da qualsiasi disciplina di partito. Questa rappresenta una garanzia gigantesca, una garanzia veramente significativa della libertà dell'eletto, il quale non potrà mai essere influenzato dal suo gruppo, dal suo partito, o almeno così dovrebbe essere, perché la Costituzione garantisce la piena libertà dell'eletto di rappresentare la nazione e non il partito. Ovviamente questa garanzia a noi viene in rilievo soprattutto quando negli ultimi anni osserviamo i fenomeni di transfughismo parlamentare, cioè passaggi di deputati e senatori da un partito all'altro, da un gruppo all'altro. Ovviamente emerge l'aspetto deteriore, perché ci può sembrare, come peraltro è emerso anche in alcuni processi penali, che deputati o senatori passino per interesse da un gruppo all'altro. Invece al fondo dell'articolo 67 c'è la massima garanzia di libertà, cioè che il partito non deve influenzare il deputato nella sua rappresentanza della nazione. Si racconta anche che nei primi anni di vita repubblicana alcuni partiti facessero firmare dimissioni in bianco ai propri parlamentari, in maniera da poter influenzare l'eventuale presenza su un voto piuttosto che un voto differente. Anche per questa ragione le Camere sono state sempre particolarmente rigorose nel valutare e nell'accettare le dimissioni dei parlamentari, sapendo che la garanzia del libero mandato parlamentare rappresenta una garanzia non solo del singolo, ma anche della nazione. We live on, it's all yours.